Italia in controluce. 13:34 minuti, buona giornata, gentili ascoltatori, Radio 24, l'appuntamento con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove. Oggi a Italia in controluce facciamo un passo nella storia. Nel giorno dell'anniversario della strage di Ustica, quando 81 persone morirono per l'esplosione in aria tra Ustica e Ponza del volo di linea Itavia IH870 da Bologna a Palermo, ecco, nel giorno del 31esimo anniversario, Daniele Biacchessi ha intervistato Daria Bonfietti, presidente dell'associazione Parenti dei Familiari delle Vittime della strage di Ustica. Sentiamo. 31 anni dopo la strage di Ustica, c'è una verità ma non c'è una giustizia. Quale verità storica emerge, Daria Bonfietti? È una verità per la verità, siamo ben arrivati, certo molto tardi nel 1999, ma nel 1999 il giudice priore ci ha consegnato la verità sulle cause, cioè ci ha detto che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. È una verità sconvolgente perché è ben evidente che nel nostro territorio, nei nostri cieli, nei nostri mari, qualcuno ha potuto attivare una battaglia, di vera battaglia di guerra aerea e abbatterci, come dire, impunemente un aereo civile in tempo di pace. Oggi noi continuiamo a parlare con il linguaggio, io dico, in questi giorni della dignità e della memoria, della dignità perché, come dire, ci sconvolgiamo, io voglio dirlo agli ascoltatori, sempre molto, pensando che nel nostro paese non c'è mai stata una vera presa di coscienza della gravità dell'accaduto, e questo ci sconvolge sempre molto perché la dignità del nostro paese ci sembrava potesse essere, come dire, ristabilita soltanto con anche gli autori di questo reato, di questo tragico misfatto, e invece gli autori ancora non ci sono. E gli autori chi possono essere? Sono gli amici alleati che da anni sappiamo essere stati con i loro aerei quella notte nei nostri cieli, e sono la Francia, l'America e molti dei paesi a cui, come tutti sappiamo ormai, il giudice priore ha rivolto rogatorie internazionali già da allora, ma che appunto non hanno dato risposte soddisfacenti, sono quelli ai quali oggi i magistrati, avendo riaperto l'indagine per strage dal 2007, stanno aspettando risposte. Quali sono le responsabilità della politica, secondo lei? Sono sempre molte, perché insisto, appunto, la disattenzione c'è stata dal 99 in poi di sicuro, ma c'è stata purtroppo ed è stato quello che ha causato questi anni di attesa, sono stati causati dal fatto che appunto già nell'immediatezza dell'evento, io credo di poter dire, si è capito cos'era successo, si è capita la gravità della situazione e molti, troppi, anche appunto a livello istituzionale, hanno purtroppo sottovalutato. Si è capito subito che quella notte quell'aereo era stato abbattuto, il nostro ministro allora dei trasporti in Parlamento, sappiamo che nel dicembre dell'80 Formica già diceva che probabilmente poteva anche tra le cause pensarsi a un missile, a qualcosa che era stato lanciato nei confronti del nostro aereo, ma anche questi, come dire, questa presa di posizione che fu la prima in Parlamento detta da un ministro della Repubblica fu poi presto abbandonata e ci si lasciò facilmente, come dire, condurre dalla facile risposta, dalla facile ovvietà che gli aerei cadono, che ci sono appunto delle tragiche ovvietà. Ecco, questo è stato il limite della politica. Per troppi anni ciascuno ha cercato di, come dico io, in una così visione che mi viene, di non alzare quella pietra dove però tutti sapevano che c'era quello scorpione, e ciascuno ha pensato bene di tenerla sempre molto premuta e nascosta. E sotto quella pietra probabilmente troviamo anche un atteggiamento abbastanza usuale per molte delle inchieste sulle stragi, quello dei servizi di sicurezza del nostro paese. Sì, sì, io credo che purtroppo molti abbiano capito, molti abbiano nascosto quella notte, ma poi hanno continuato a farlo negli anni successivi senza dare indicazioni al politico, alla politica, e questo ha indotto un paese intero a, così, ad abdicare, io credo di poter dire, alla sua sovranità nazionale. Sono stati violati i confini del nostro paese, è stata violata la vita ovviamente di 81 cittadini, ma anche la dignità nazionale, e questo io credo sia l'aspetto più negativo e più infamante per un paese, quello di non riuscire a rendere conto, dare conto ai cittadini, e quindi parliamo proprio di trasparenza delle istituzioni, trasparenza dei servizi, trasparenza nelle comunicazioni che non c'è stata allora e continua a non esserci oggi. Io vado in questi giorni riportando, perché mi sembra importante appunto, una lettera che abbiamo trovato rileggendo tante carte e trovando anche archivi e luoghi nuovi, che aveva mandato, pensate, il presidente della commissione ministeriale nominato allora dal Ministero dei Trasporti, si chiamava Luzzatti, Carlo Luzzatti, ed era stato nominato dal ministro Formica appunto. In questa lettera che manda al suo ministro, il Luzzatti, dice che appunto bisognerà cito, ritengo, perché è interessante come si esprime, ritengo doveroso, dice Luzzatti, rappresentare alla signoria vostra, cioè al ministro, che a mio parere l'indirizzo delle indagini, ivi compreso la scelta delle scale di priorità per il privilegio delle ipotesi di lavoro, debba scaturire da una valutazione che tenga conto delle ripercussioni che i risultati di tali indagini potrebbero avere su interessi superiori del paese. Allora, già nell'81, queste sono cose dell'81, perché questa commissione termina i suoi lavori nell'82, Luzzatti poteva dire, e stava lavorando sull'ipotesi o bomba o missile, perché aveva escluso fin da subito il cedimento strutturale, bene, però in queste parole si evince come la sua preoccupazione sia quella di dire al ministro: guardate che se appunto nella scala di priorità ci mettiamo quello che io sto trovando, qui bisognerà pensare per l'appunto a come reagire, come tenere conto degli interessi superiori del paese, che in questo caso, se questi sono i possibili eventi successi nel nostro paese, potrebbe avere. Allora, la politica cosa ha risposto allora il ministro di turno a questa lettera? Questo non lo sappiamo, non abbiamo ancora trovato che cosa seguì a questa preoccupazione di Luzzatti, ma insomma, per dire che fin da allora era ben chiaro a tutti, e tutti hanno provato a interessarsene poco, a venire fuori poco con delle considerazioni. Comunque nella realtà è andata così, perché nelle carte anche del giudice Priore più di così non si riesce ad avere. Giugno 1980, dunque, un aereo Itavia decolato da Bologna diretto a Palermo, all'altezza tra Ustica e Ponza, esplode in aria, muoiono 81 persone. Uno dei tanti fatti tragici, una delle tante stragi della storia italiana rimasta senza una chiara verità giudiziaria. L'intervista di Daniele Biacchessi a Daria Bonfietti, presidente delle vittime familiari della strage di Ustica. A questo è stata dedicata la puntata di oggi di Italia in Controluce. Noi torniamo domani mattina alle 6.30 con altre storie. Voi intanto continuate a seguirci, a commentare i servizi che sono andati in onda o a raccontarci, a proporci le vostre storie. Controluce at radio24.it, siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Alessio Maurizi in studio, Mauro De Angeli in regia, vi augurano buon proseguimento con il resto della programmazione su Radio 24. Buona giornata.